Sì, stamattina insomma intorno alle 5:30, classico orario e classico periodo, perché sanno bene che se devono colpire ci devono provare ad agosto. Si sono presentati ai cancelli del nostro studentato occupato Anomalia, qui in via Archirafi a Palermo, e hanno attuato uno sgombero che in qualche modo poteva essere annunciato, ma che in realtà ha basi davvero poco solide. Noi appunto da un anno e mezzo abbiamo occupato questo spazio, abbiamo annunciato dal primo momento l'intenzione di realizzarvici uno studentato autogestito per studenti universitari di Palermo, essendo lo spazio di proprietà dell'università. Da mesi cercavamo, pur sapendo diciamo a cosa andavamo incontro, ma ci è sembrato giusto farlo. Cercavamo un'interlocuzione con le istituzioni accademiche, quantomeno per rendere ancora più chiaro, se necessario, la validità del progetto di cui ci siamo fatti carico in questo anno e mezzo. A settembre l'intenzione è quella di inaugurare lo studentato, perché abbiamo praticamente terminato i lavori che sono durati tutto questo tempo, con enormi sforzi sia economici che di fatica vera e propria, perché parliamo di uno stabile sì di proprietà dell'università, ma abbandonato totalmente a se stesso da qualcosa come 40 anni, quindi non solo in disuso, ma utilizzato come discarica per 40 anni, non solo dal quartiere ma anche dall'università stessa. Abbiamo impiegato così tanto tempo e fatica che non ci stiamo ad andarcene in maniera tranquilla e pacifica, quindi siamo ancora qui davanti allo spazio dove si stanno radunando decine di studenti, e non soltanto studenti. Stiamo ricevendo solidarietà da forze politiche studentesche, giovanili, ma anche di partito, dal contesto cittadino, dallo scenario cittadino. Quattro persone sono state fermate nel momento dello sgombero, perché quattro studenti che avevano da un paio di settimane iniziato ad abitare lo studentato, appunto essendo studenti fuori sede e lavoratori precari, già da un paio di settimane si erano stabiliti all'ultimo piano della struttura, nello spazio abitativo che stiamo adibendo. Queste quattro persone sono state portate in questura per accertamenti. Non ci sono problemi di nessun tipo su di loro, aspettiamo che ci raggiungano nel più breve tempo possibile. Nel frattempo abbiamo già annunciato la nostra intenzione di restare qui davanti fin quando le forze dell'ordine, che in questo momento stanno presidiando lo stabile, non se ne saranno andate una volta per tutte. L'intenzione è quella di non cedere questo spazio, non cedere alla repressione attuata dal rettore La Galla e dalla questura, semmai rilanciare, annunciando che noi questo spazio ce lo riprenderemo, perché i nostri progetti non li buttiamo a mare così facilmente, non basta così poco a intimidirci, quindi riprenderemo il nostro lavoro all'Anomalia, perché Anomalia è la risposta migliore che si può dare a questa università della crisi. Guarda, ti ringraziamo molto. Ovviamente se ci dovessero essere novità non positive, cosa che nessuno si augura e che non credo, dalla questura ci risentiremo a breve. Voi quindi continuate il presidio e non avete intenzione appunto di mollare la piazza, quindi le forze dell'ordine in questo momento sono all'interno dello stabile e voi siete fuori, giusto? Sono moltissimi all'interno che stanno, penso, demolendo tutto quello che noi abbiamo costruito in questo anno e mezzo. Altri sono schierati davanti ai vari ingressi dello stabile, uno stabile che è abbastanza grande e che ha parecchi ingressi, che ha richiesto da parte della cellula un enorme dispiego di forze, parliamo di almeno quattro camionette di celerini. Insomma, loro sono qui a presidiare, non siamo subito all'esterno. Stiamo annunciando proprio in questo momento che l'intenzione è quella di restare ad oltranza, siamo pronti ad accamparci anche qui fuori se loro decideranno di restare anche stanotte, siamo pronti a farlo anche noi. Abbiamo già annunciato al rettore la ferma volontà di non andarcene finché non vengano ritirate le forze dell'ordine. Da quello che ricordiamo, è uno spazio di proprietà dell'università e in cui stavano studenti universitari. quindi un atto gravissimo da parte del rettore, ne dovrà rispondere anche lui nelle prossime settimane. Perfetto, allora ti ringraziamo e casomai ci aggiorniamo prima del giornale radio per avere conferma che sono tornati tutti, insomma che tutti i compagni sono usciti dalla questura. Ti ringrazio molto e buon presidio. Ciao, grazie. Grazie a tutti, a più tardi. Ciao.